Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. La popolazione pediatrica potrebbe giocare un ruolo attivo nella trasmissione del virus. A sostenerlo è l'Istituto Superiore di Sanità, che ha pubblicato da poco uno studio sulla rivista Pediatrica che commentiamo a Obiettivo Salute con uno degli autori, il professor Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria e primario di Pediatria Generale e Malattie Infettive al Bambino Gesù di Roma. Buongiorno professor Villani e benvenuto. Buongiorno. Professor Villani, quindi anche i bambini possono contagiare? Certamente. Inizialmente il ruolo dei bambini era stato ritenuto marginale. Quello che è confermato è che sicuramente quando si ammalano hanno delle forme più lievi. Fortunatamente le forme sono meno letali, ma i bambini vengono contagiati e nei primi 5.000 casi italiani in realtà il contagio era avvenuto proprio all'interno della famiglia, ma chiaramente oltre a essere contagiati possono contagiare. Certo, rispetto ad altre situazioni tipo l'influenza sono meno contagiosi degli altri, ma possono contagiare anche gli adulti. Professor Villani, per la riapertura delle scuole che problemi vede o prevede? Guardi, i problemi saranno tanto più grandi quanto meno verranno rispettate le regole che noi ci siamo dati. Quindi nel rispetto delle regole, ma questo non solo a scuola, in tutte le situazioni, il rischio può essere contenuto. Quindi valgono sempre quelli che sono ormai dei nostri capisaldi, ossia il distanziamento fisico, l'uso delle mascherine quando richiesto, il lavaggio delle mani. Quindi anche a scuola, se si sarà seduti nel banco a distanza di prudenza da chi c'è vicino, il rischio di contagio è pressoché zero. La mascherina andrà indossata solo in quei momenti in cui non è possibile mantenere le distanze e il lavaggio frequente delle mani. Quindi avendo attenzione a queste semplici regole, ma che devono essere rispettate, il rischio sarà molto contenuto. Tutto sarà fortemente condizionato da quella che sarà la situazione epidemiologica a settembre. Grazie professor Villani per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie, per oggi è tutto. Come sempre vi segnalo l'appuntamento sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute dei nostri incontri a tu per tu. Oggi, insieme al professor Claudio Borghi, direttore dell'unità operativa di medicina interna al Sant'Orsola Malpighi di Bologna, parliamo di ipertensione e di caldo. Vi aspetto, non mancate, una buona giornata da Nicoletta. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.